Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mattino, ascolta su Radio 24, Alino. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, sono certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese. Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una persona, massimo un'altra, ma non ricordo esattamente, uno è venuto nel seggio, non si trovava l'euro, questa persona che neanche conosco, per non apparire scortese, io davanti a tutti, proprio per far comprendere l'eccezionalità di un atto così, gli ho detto vabbè, non c'è problema, votate. Io gli ho dato l'euro per poter, non mi preoccupate, capiterà. Una cortesia, costui Antonio Borriello, consigliere comunale a Napoli, che non vide immortalato a dare l'eurino per votare. Zo, come dicevano i nonni, e ti basti per 3 giorni. 1000 lire al mese. Ah, queste a Pagani c'è un'espressione bellissima, cioè babbarie. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. Dai. La prima una B solo, la seconda con 2 B. Diciamo, sono sciocchezze un po' più rafforzate come te. Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Quindi secondo me non è clamoroso che un consigliere comunale paga 1 euro alle persone per andare a votare in primario. Era un consigliere particolarmente ispirato da Papa Francesco e dal Giubileo della Misericordia, e che vedevo, gli ha dato 1 euro. È meglio se gli dà una seppola comunque. Al mese, senza esagerare, sono certo di trovare tutta la felicità. Però dal PD molti hanno condannato quest'atto. E condanno pure io, così siamo uno di più. Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Vince sempre De Luca. Babbarie a Pagani. A Pagani la chiamano così. Babbarie, sciocchezze. Sciocchezze, tu sciocchezzuole, sciocchezzuole. Anche la Valente, colei che ha vinto a Napoli, dice: per piccole cose non inficiate tutte le primarie, non si discutono per singoli casi una vittoria così chiara, così netta, ma ha vinto per 500 voti, adesso io va bene tutto, ma sarà sicuramente una vittoria limpida e pulita, voglio crederci, ma 500 voti non è che si può dire una vittoria chiara, non ha vinto di 300.000 voti, per cui si sta discutendo di quei, tra l'altro, 500 voti più o meno. Quindi, se, come ha detto Bassolino, se 250 avessero votato per me invece che per lei, 250, si sarebbe ribaltato il voto. E infatti Bassolino fa ricorso alle primarie. Sentilo qua, Bassolino è disgustato. Una mogliettina giovane, carina, tale quale. Il video di Fanpage c'ha immagini per le quali viene fuori un disgusto. È un mercimonio quello che si vede nelle immagini. Il mercimonio per me è inammissibile. Trovo ridicole le spiegazioni che sono state date. Gli organismi di partito che devono occuparsi di queste questioni devono esaminarsi. Fanpage.it, il video di Fanpage, vabbè, sull'inglese magari, ma sappiamo i nostri politici. Però Bassolino è un po' incazzato e fa ricorso sulle primarie. Allora, cari ascoltatori, siamo qua, sono le 6:34 minuti, questa è 24 mattino, siete svegli? Siete svegli, ci scrive il nostro caro ascoltatore sempre presente dall'Australia, grande, è il nostro amico Mauro Fieni, tennis coach da Hong Kong, anche lui. Buongiorno anche a te, Mauro. Com'è andata oggi la giornata da tennis coach a Hong Kong? Bellissimo, fa il tennis coach a Hong Kong, vi rendete conto? Convoco subito il ritorno di Paola Saluzzi. Paoletta, eccola qua. Paolina. Ma io sono in colpa. Sono in colpa per aver mancato ben una puntata con te. No, ma no. Una. Ma tu c'eri con il cuore. Con il cuore sì. Assolutamente. Tu faresti la tennis coach a Hong Kong? Guarda che deve essere una bella vita. Molto volentieri, se solo fossi di un livello superiore alla raccattapalle. Se solo fossi un coach, è giusto. Prima bisogna essere un tennis coach. E poi prima bisogna saper giocare bene a tennis, poi bisogna avere l'animo del coach. E poi andare a Hong Kong. Vabbè, diciamo, e poi avere i clienti a Hong Kong. Diciamo, sono quattro passi che si possono. Uno c'è, voglio fare la corsa, gli altri sono da costruire. Buongiorno la nostra Paola Saluzzi da Sky TG24 pomeriggio, direttamente qui a Radio Paola, a Radio 24. E certo. Da mezzanotte. Si sa. Ecco, mi mancava la sigla. Paola, grazie regia, grazie. Paola by night. Tutta la notte inesorabilmente per ascoltare la voce di Paola. È meraviglioso. 6:33. La nuova stagione. Ecco, queste... meraviglioso. A Pagani c'è un'espressione bellissima, cioè babbarie. E poi dice ai giornalisti basiti in beco con una B la prima e poi due babbarie. Vabbè, allora insieme a Paola Saluzzi c'è il nostro Luca Dini. Buongiorno. Direttore di Vanity Fair. La scorsa settimana mi sono dimenticato anche di farti gli auguri. 10 anni di direzione a Vanity Fair. Stavo dicendo a Radio Vanity Fair. Per me è tutto è radio. Siamo tutti radio. Tutto è radio. E vabbè, auguri in ritardo. Grazie. Il classico che arriva il giorno dopo i compleanni a fare. Ma gli auguri dopo fanno ancora più piacere. Certo, l'anniversario dura tutto l'anno. Ah, fantastico! Ecco, quindi tutti i mercoledì ti faremo gli auguri. A questo punto. Allora, apriamo il Parlamento, perché qui bisogna capire questa storia delle primarie, per carità, non so quanto appassioni. La questione è che l'unico partito, l'unica coalizione, cioè il centro-sinistra che le fa in maniera così diffusa, così seria, sì è vero, quelli del Movimento 5 Stelle fanno queste elezioni online, però insomma sono per pochi iscritti, diciamo la verità, non sono i numeri, però l'unico partito, l'unica coalizione che porta tante persone a votare anche alle primarie, però le fa così, cioè nel senso succedono questi pasticci, Luca Dini, possiamo chiamarli almeno pasticci? Sì, pasticci sicuramente. Babbarie, poi chiamarle babbarie anche babbarie. Tu. No, però insomma, dà un po' di scoramento da italiano vedere che gli unici che le organizzano finiscono poi così. Ricordiamo, 5 anni fa furono annullate a Napoli per polemiche. Detto questo, cioè, quello che se è andata come abbiamo visto, questi signori hanno votato gratis, non è che sono stati pagati per votare, cioè magari... Se uno vuole comprare i voti, gliene dà 10 e li dà a casa, non so come dire. Sì, l'eurino. Ma poi perché l'eurino? Perché bisogna pagare questo euro al partito per votare. Ma c'è uno proprio del tipo, sì, io vengo a votare, però l'eurino me lo metti tu. Cioè, questa è cioè vengo fino a lì, però l'euro, per favore, mi paghi il caffè. Che devi fare? Tu, Paoletta, che idea ti sei fatta? Capiremo cosa sia successo, insomma. Questo non dovrebbe non inficiare il lavoro di chi ha deciso di tutti quelli che poi hanno deciso di correre, perché poi questo è stato, insomma. Capire se sia stato quel singolo episodio o quell'episodio o altri più diffusi, quindi... Sì. Comprendere, andare un po' più a fondo della notizia che comunque c'è e andare un po' più a fondo. No, anche perché a Roma, per esempio, succede anche questo, a Roma hanno contato e ci sono più schede degli elettori. Il Corriere della Sera ha messo, c'è questo strano caso che ci sono più schede di quanti sono andati a votare. Effettivamente è un po' strano come caso. Io è dalle 5:30 che cerco di darmi una spiegazione di come ci possano essere più schede del numero di elettori. Sì, la matematica non è un'opinione. Però sono qui da un'ora che mi scervello, ma è uno strano c'era caso. C'era qualcuno che era molto entusiasta. Ne hanno buttate lì due, tre, quattro. No, la verità è che forse... Ha pagato 10 euro e... Ha messo delle schede. E ha messo 10 schede. La verità è che forse andrebbero regolate in maniera un po' diversa, insomma, in maniera un po' più stringente. Certo, forse sulla base di questi errori si imparerà a regolarli in futuro in modo chi certo. Lo sa. Certo, il presidente del partito, che è Orfini, dichiara alla stampa poche questioni non inficiano il risultato, cioè come dire, discorso chiuso. Le primarie sono queste. A me, se devo dire, quello che non è piaciuto è stato il suo riferimento ai rom in coda la volta precedente. Scusate, ma qua, questa... ma sai perché l'ha detto? Perché Orfini ha detto questa cosa sui rom, perché allora non era lui il presidente del partito. Ha detto questa volta non si sono visti i rom. Sì, è stata una caduta di stile, No. Lascia perdere, dai. Cioè, questa volta non si sono viste cos'è che ha detto le carovane di rom... a votare, sì, effettivamente è una cosa di cattivo gusto. Forse la stiamo recuperando anche in regia, questa di Orfini, presidente del partito, pur essendo un grande milanista, devo dirlo, ha sbagliato. Questo lo giustifica un pochettino. Eccoli, lo sapevo. Però, arrivati al caso, per Luca Dini è un aggravante, per me lo giustifica, ma sentilo qui, Orfini. Una buona affluenza, è andata bene. La metà della volta scorsa. Ma la volta scorsa c'era il Partito Democratico, delle truppe cammellate, di quelli che sono stati arrestati, delle file di rom e quant'altro. Questi sono dati veri di un partito vero. Dai, Luca, quello è il partito. Quello è il partito degli arrestati e delle file di rom, Però sì. Di cui lui non faceva parte, no? No, infatti credo che lui non facesse proprio parte del PD. È nato nel PD quando è diventato presidente, no? Credo. Esatto. Sì, insomma, vabbè, queste primarie regalano un po' di polemiche. Un po' di veleni. D'altronde, cosa sarebbe una bella serie di fatti politici senza un po' di veleni? Ma infatti. Tu, cara Paoletta, ti sei occupata di queste primarie questi giorni? Ci siamo occupati delle primarie, abbiamo avuto con il nostro Paolo Chiariello, che ci racconta tutto ciò che a Napoli accade, il nostro corrispondente, perché Napoli deve avere un corrispondente ed è giusto che sia così, la Valente, neoeletta, che ci ha presentato il suo piano per Napoli. Quindi abbiamo fatto un dialogo aperto molto interessante e che si vada avanti, poi chiaramente poi che non ci siano i ricorsi, poi. Sempre che non ci siano i ricorsi, sì, esatto, no, che non ci siano i ricorsi, che le babbarie non era Crozza, era De Luca, Crozza ve lo faccio sentire adesso, invece sentilo qua Crozza. La Valente ha vinto rispetto a Bassolino con uno scarto di soli 450 euro. Non male questa, no, non male, uno scarto di 450 euro. Voti, vabbè, ancora Crozza. Domenica, Renzi era domenica live, i suoi elettori di Roma erano a Chi l'ha visto e quelli di Napoli erano a Ok, il prezzo è giusto. D'altronde si sa. Allora, e le primarie le abbiamo sistemate. Bassolino è disgustato, ve l'abbiamo fatto sentire e vabbè, andremo avanti. Non so, i nostri ascoltatori non sono molto appassionati a questo, secondo me, devo dire, le primarie. No, ma infatti, su cosa si appassionano? Ecco, per esempio, io non ne vorrei parlare perché questo delitto di Roma, cioè sono anche le 6:43 del mattino, cioè ci sono dei particolari raccapriccianti di questi che hanno veramente torturato e poi ucciso questa persona. Tra l'altro pare che abbiano convocato 23 persone via SMS. Poi alla fine, pensa come si devono sentire quelli convocati. Poi alla fine uno è cascato in questa trappola terribile. Però posso dire una cosa, effettivamente oggi Filippo Facci racconta su Libero, dice basta, certo che erano drogati, è ovvio che erano tossicodipendenti, drogati, la droga avrà sicuramente... Però dire è colpa della cocaina, colpa della droga, non lo so, cioè sono due persone che volevano e hanno manifestato varie volte, uno pare in passato ha cercato un mese fa di fare la stessa cosa, prendendo a botte un suo amico convocato a casa e poi gonfiandolo di botte. Cioè, non lo so, è colpa della droga, Paola? No, detto che la droga è una... No, concordo in pieno con Facci. No, assolutamente, colpa di una deviazione mentale, ma non per questo giustificabile. No, è talmente orrendo quello che si legge che ti fa male leggerlo, non so come dire. Ma no, ma è chiaro. Stiamo parlando di due persone che hanno deciso un'operazione inqualificabile, cioè non c'è aggettivazione sufficiente. Ma no, ma anche perché veramente a leggere i verbali, cioè di quello che ha fatto. Nascondere tutto dietro, eravamo drogati, no. Ma ci sono altre cose che mi hanno colpito, per esempio, non so, ma per carità non voglio giudicare la TV, qui abbiamo Paola Saluzzi che fa TV, eccetera. Ma Luca, ma tu se fossi stato il padre di uno di questi due assassini rei confessi, ma saresti andato a porta a parlare il giorno dopo? Francamente, no. E neanche l'avrei invitato. No, tu è beh, interessante questo, cioè tu neanche l'avresti... Secondo me non era da portare neanche in TV. Cioè, per carità, lì è sempre la questione di dire però le cose le devi raccontare, le devi far raccontare ai protagonisti. Sì, ma così a caldo, cioè non è passato un mese, cioè non lo so, io lo trovo... Un po' esagerato. Io penso alla disperazione di quel padre. Che dici, Paola? Tu... Penso alla disperazione di quel padre. Ma sicuramente, sicuramente. Cioè, peraltro il figlio vive... un piano sopra la madre. Tutto questo è successo, un piano sopra sua madre. Beh, forse è il tentativo intanto di dire la verità e tutta la verità, di denunciare, perché alla fine il padre è andato a denunciare in tutti i sensi, l'ha fatto anche mediaticamente. Siamo in una società mediatica, no? Sì. Dove le cose accadono anche perché dette, anche perché raccontate attraverso il canale televisivo, piuttosto che... Quindi forse si è mosso più attraverso una disperazione e una volontà di dire subito cosa fosse accaduto, cioè di non nascondere, esatto, di non giustificare. Esatto, cioè mi presento, ci metto la faccia, sì, vi dico quello faccia, che ha fatto mio figlio. E quello è mio figlio. Però credo certamente, credo che sia stato spinto da questo. Sono d'accordo sul fatto che la droga viene usata sempre come alibi, quando invece diciamo che insomma è uno strumento, uno che vuole fare una cosa la usa per diventare ancora peggiore di quello che è. Sì. Io non vorrei sembrare spietato, però ho visto in questi giorni quello che è successo con Pietro Maso e secondo me è la dimostrazione che a volte bisogna stare molto attenti a dire che una persona è recuperata. Salvata, migliorata, perché poi che sotto ci sia sempre una cosa che ogni tanto trova il modo di venire fuori. Anche perché non è detto che le persone non tutte cambino. Sono redimibili, salvate, appunto, migliorabili, appunto, eccetera. Appunto, non è che una cosa rotta si può detto aggiustare. Detto questo, per io forza. Non do nessuna altra cosa che voglio dire. Ritengo che i genitori di persone così non abbiano nessuna colpa, perché non si può pensare che uno... Io penso che uno faccia del suo meglio e poi a volte semplicemente hai da... gigantesca, terribile sfortuna, di disgrazia di essere genitore di una persona così. I figli sono diversi da noi, poi fanno le loro scelte. Dobbiamo andare al traffico, poi rientriamo, state con noi. Caro Alino, che sei in Milano, dacci oggi il nostro traffico quotidiano. Allora, buongiorno, e per quanto riguarda Bertolaso e Adinolfi, vengo anch'io? No, tu no, per carità di Dios. Buongiorno Milan, sono a Murmansk, in Russia. Qui c'è la neve altissima. Ho visto alla televisione l'intervento di Salvini, dove dietro di lui sventolavano le bandiere russe. Ma io mi chiedo, ma questi che sventolano le bandiere russe si rendono conto che in Russia la gente non prende nemmeno 100 euro al mese? Lo sanno o no? Oh mira, sono il sorrettino, stessa etichetta qui, sono andato a pigliare il figliolo al campo perché c'era una contrattura, l'ho portato via dal massaggiatore e c'era 10 km di distanza. Dice, babbo, mi sono scordato il cavetto perché hai visto questi figlioli e questi avetti, la mettono sulla radio, vogliono sentire le sue canzoni. E ce l'aveva. Lo sai che ho fatto? L'ho fatto sentire 20 minuti di Radio Maria, 20 andà e 20 a tornare. Ciao. Il Fiorentino, ma sei crudele, ma Fiorentino, a parte che dico, allora modernizzati Fiorentino, ti voglio sfidare un po' così. C'è WhatsApp, hai presente quella cosa che si chiama WhatsApp? Sì, però l'immagine è meravigliosa. Povero figlio, si è dimenticato le cuffie e lui ti faccio sentire 20 minuti di Radio Maria. Sicuramente però dopo questo ascolto, con tutto l'amore, con tutto l'amore per Radio Maria, e non dimenticherà mai più le cuffiette. Porta le cuffie, esatto. quelli che lavorano con il martello pneumatico. Compra 5 cuffiette e le mette dappertutto, una in macchina, esatto. Fiorentino, comunque, via WhatsApp al 349-238-6666 si possono mandare degli audio, la qualità è perfetta, anzi audio come questi, senti un po', WhatsApp. Alino, la tua squadra è una babbaria. Paola Saluzzi, la rossa italiana con più cavalli nel motore della Ferrari. Che splendore. Babbaria, Milan, babbaria. Allora. Nel frattempo c'è il mio mitico maestro di scherma, Renzo Musumeci Greco, che mi scrive: non sapevo tu facessi la tennis coach a Hong Kong. ho lasciato un nuovo lavoro, ma perché no? No, però scusa, qui ci stai dicendo che vai a lezione di scherma. Ho fatto lezioni di scherma, sì, spada e fioretto. Ma che immagine magnifica. Accademia Musumeci Greco. Ragazzi, ma che immagine magnifica! Una donna pericolosa. Sì. Infatti, pericolosa come questa donna che mi guarda dalla copertina di Vanity Fair. Mi guarda così, mi seduce un po', mi scruta. Luca? Solo te. Sì, solo a me. È il vantaggio della copertina, te la metti lì e sembra che guardi te. Irina Shayk, che è poi l'ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, diciamo la verità. È pericolosa perché... Ma è vero che è una campionessa di jiu-jitsu? Sì, pare di sì. Ah sì? Guarda, guardandola è la prima cosa che uno pensa. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Eccolo lì, vabbè. Fa anche la coach, se vuoi andare... fa la coach a Hong Kong di jiu-jitsu. Peter Bescapea, grande richiesta, te la faccio vedere, eccola qua, questa è la copertina di Vanity Fair. C'è lì l'Alpino che dice, la giri un attimo, che vediamo anche noi dalla regia, anche Lorenzo Nespoli, e sorridono, la loro giornata è svoltata. Bene. Ragazzacci. No, vi devo far sentire il brunetta del giorno, non posso lasciarvi senza. Allora, il brunetta del giorno è questo. Vada pure da Radurso a raccontare le sue storie. Vada pure da Fazio a rischia tutto. Scappi pure dal Parlamento, ma non può scappare dalla realtà. Brunetta che parla di Renzi, ce n'è un'altra? Ecco. Adesso ci aspettiamo che ulteriori novità ce le faccia sapere da Fazio a rischia tutto. Evidentemente questo è il nostro premier pro tempore. Pro tempore, va bene Luca, pro tempore. Cosa c'è? Stai chiamando Caterina tu? Sto cercando di farle fare un miau, ma non niente, un miau brunetta. No, ma sto facendo le fusa e quindi... Tirale un'unghia. Ma che cosa dici? Qui sono solo coccole, carettine. Vabbè, ho capito, però era per agevolare un suo editoriale a Radio 24. Non c'è editoriale. Nessun editoriale, un baffo. Questi sono i miei baci. No, sono i baci che sto dando a lei. Va bene, sono cose. No, non abbiamo fatto colazione. Gradiremmo in conclusione ricordare, Luca Dini è tornato a farlo, il selfie. L'altra volta ci ha mandato veramente il selfie, sì, del pomello dell'armadio su Twitter. Se ci mandate un particolare della vostra, se ci mandi una foto di Caterina, guarda che le foto dei gatti vanno tantissimo, se fai una foto di Caterina vado con la foto del gatto e ve la mando subito. Perfetto, su Twitter, mettila su certo Twitter che, noi ci siamo. Buon alle grazie, alle 15 ricordate Sky TG24 pomeriggio c'è la Paola Saluzzi, la nostra Paola, ve la prestiamo a Sky, poi torna a fare Radio Paola, e c'è ovviamente Irina Shayk che mi guarda così, copertina di Vanity Fair, mi scruta in edicola, guarderà anche voi se è questa magia per cui la prendete e vi guarda. Vabbè, ciao. Babbarie, queste sono babbarie, diciamo sinceramente. La prima una B solo, la seconda con due B. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:20, ce l'abbiamo fatta anche oggi con la rassegna stampa ad andare in onda, cari ascoltatori, e allora siamo qui pronti a leggere quello che raccontano i giornali. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. La prima una B solo, la seconda con due B. Le babbarie, così Vincenzo De Luca definisce, cioè sciocchezze, come si dice dalle mie parti. Le vicende di Napoli, delle primarie, babbarie. Vabbè, dai, andiamo a leggere i giornali. È mercoledì 9 marzo, siamo ai titoli, ne leggo alcuni, poi vado subito a leggere gli articoli, se no non ce la caviamo più. Allora, il Sole 24 Ore apre sull'Unione Europea. L'Unione Europea salva l'Italia, ma servono 3 miliardi. Renzi dice nessuna manovra aggiuntiva. Mentre sulle primarie, che finiscono con il ricorso di Bassolino, soprattutto a Napoli, il Corriere della Sera. Primarie del PD sotto accusa, ricorsi e proteste. Il Messaggero, Roma e Napoli, ombre sul voto. Mentre Libero, il PD imbroglia anche sui brogli, questo è il titolo di prima pagina. Poi c'è chi sceglie i migranti come apertura, La Stampa, migranti, la Slovenia chiude i confini. Repubblica invece torna sul caso dell'uccisione di Giulio Regeni in Egitto, così l'Egitto ha depistato la verità sulla fine di Regeni, questo è il titolo di prima pagina. Ma buttiamoci subito nella lettura di giornale, ancora tanto spazio, quello che è il macabro delitto di due giorni fa a Roma, dove una coppia di uomini ha ucciso un, come dire, amico, dobbiamo definirlo così, convocato a casa e torturato e poi ucciso. Perché tanto spazio? Beh, intanto perché ci si interroga su questo delitto davvero atroce a dir poco, e poi perché ci sono dettagli che compaiono, per esempio questo raccontato dal Messaggero e dalla Stampa. Pensate che Marco Prato, arrestato insieme a Manuel Foffo perché rei confessi di questo omicidio, l'omicidio di Luca Varani, già un mese fa Marco Prato aveva tentato di fare più o meno la stessa cosa. Un altro ragazzo fu drogato e segregato dal killer per gioco. C'è un sopravvissuto, racconta Grazia Longo sulla Stampa, un sopravvissuto alla furia alimentata dallo sballo di due giorni di cocaina. Già un mese fa Marco Prato si è rinchiuso nel suo appartamento a Piazza Bologna insieme a un trentenne cocainomane come lui, riempiendolo di botte. In quel caso il ragazzo fu salvato dalla madre, che dopo 24 ore non aveva più notizie di lui, è riuscita ad arrivare a Marco Prato perché sapeva che lo frequentava e ha mandato i carabinieri, e quando sono arrivati hanno trovato Marco Prato e l'amico trentenne strafatti e quest'ultimo gonfio di botte. Però quest'ultimo l'ha denunciato, ma poi ha ritirato la denuncia per il timore evidentemente di ritorsioni. Sta di fatto che davvero i particolari che emergono sono incredibili, di una violenza inaudita. Repubblica dice che oltre alla vittima altri 22 sono scampati alla trappola. Perché? Perché Marco e Manuel inviarono quella sera 23 sms per invitare altrettanti amici a raggiungerli. L'unico a rispondere è stato Luca Varani. Quindi il timore, o che volessero uccidere uno a caso, ma l'hanno anche detto, oppure che ne volessero uccidere di più, con questo dettaglio davvero incredibile, è stato anche colpito alla gola con un coltello per impedirgli di gridare, insomma gli hanno tagliato le corde vocali, ecco, per dirla tutta. C'è anche un dibattito molto molto interessante riguardo a questo, e io sono d'accordo al 100% con Filippo Facce, quello che scrive su Libero in prima pagina, e cioè gli assassini sono loro, non la cocaina. Certo, si dice, erano drogati, certo erano gonfi di cocaina. Aver preso cocaina, scrive però Facci, può essere un attenuante, non un esimente della responsabilità penale. La cocaina, in altre parole, può trasformarti in un mostro, solamente se il mostro ti albergava dentro già da qualche parte. Può darti la sferzata per condurre in fondo qualcosa che avevi già abbozzato. Così come il doping non trasforma un geometra in un atleta, la cocaina può solo accelerare un vortice in cui ti stavi avvitando da solo. Non occorre essere tossicologi per saperlo. E comunque non c'è tossicologo che descriverebbe questa polvere come un qualcosa in grado di trasformarti da agnello in lupo, da Jekyll in Hyde, da studente scavezzacollo in torturatore assassino. I due torturatori avevano idee precise sin dal giorno prima, maturate senza droghe. E infatti nel verbale dice: uno dei due avevamo il desiderio di far del male a una persona qualsiasi. Questa cosa è maturata nella nostra mente nella notte di giovedì. Anche questo è a verbale, scrive Facci. Dunque i killer di Roma non si nascondano dietro la coca. È un po' quello che dice anche intervistato Riccardo Gatti, che è direttore del Dipartimento Dipendenze all'ASL di Milano. Il titolo dell'intervista di Enza Cusmai è: la droga causa psicosi e paranoia, non massacri. Dice Riccardo Gatti: la prima cosa che mi è venuta in mente nel sentire in TV il fattaccio è che questi tizi erano sicuramente drogati. Intendiamoci, la droga non è la causa di tutto, ma certe cose sotto effetto della droga diventano più facili. Però suppongo che ci sia una base personale dietro, sempre che la storia che ha raccontato sia quella vera. Si può anche ammazzare e poi sballarsi per avere un alibi. Insomma, effettivamente questa cosa di dire colpa della droga, come peraltro ha detto subito il papà di uno dei due che è corso a Porta a Porta, anche qui c'è la polemica per la presenza in Porta a Porta, è un po' esagerato, no? Dire colpa della droga. Detto che la droga ovviamente è una bruttissima cosa, questo sia chiaro ed è scontato. Vabbè, ma lasciamo, ci sono tante pagine di cronaca su questo, se volete anche con dettagli raccapriccianti le troverete sui giornali. Veniamo alle questioni più politiche, le questioni che mi hanno colpito, a cominciare da che cosa? Beh, sapete quanti sono i gruppi al Senato? I gruppi e i sottogruppi al Senato, dicono che ci vuole il partito della nazione. Senti qua. 41 tra gruppi e sottogruppi. Per avere un gruppo bisogna avere almeno 10 senatori. I sottogruppi sono quelli che si mettono magari da soli o in due o in tre, non sono quindi un gruppo, ma sono una componente. E gruppi e sottogruppi, Palazzo Madama ne ha 41, dove la maggioranza balla, racconta Gianluca Roselli a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Le componenti aumentano, basta un solo voto. E ognuno che passa da un gruppo a un altro o da una componente all'altra provoca fibrillazioni, eccolo qui, e mette a rischio i numeri del governo. 41. Ne analizza un po' il Fatto Quotidiano. Cari italiani, io non vi voglio mettere in allarme, non vi voglio fare arrabbiare, non vi voglio neanche far pagare, ma insomma... Come anticipava peraltro ieri il Sole 24 Ore, oggi Libero approfondisce questa vicenda dei contatori. I contatori. Arriva il balzello sui contatori. Allora è stato deciso che oltre 30 milioni di contatori elettrici saranno da sostituire iniziando già da quest'anno. Bisogna adeguarsi alle nuove tecnologie. Verrà tutto cambiato entro il 2017. Sapete quel contatore che avete, che ne so, in cantina, in cucina, nel sottoscala, quello che controlla quanta elettricità consumate. Vanno cambiati. L'Authority per l'energia dà l'ok. Verranno installati 30 milioni di nuovi apparecchi. Il costo pare sia sui 2 miliardi. Vi faccio il solito quiz. Secondo voi, indovinate un po', chi pagherà questi contatori? Magari nella bolletta. Chi li pagherà? Ecco, Carmelo Lauricella che passa dice tu, no, non è che mi accollo, io è un io ideale, tu caro ascoltatore, tu che ascolti, pronto, metterai il tuo piccolo eurino, magari a rate, magari spalmato così in bolletta in un modo che non è proprio chiarissimo, non so, magari se non stai attento, se uno di quelli come me che arriva la bolletta paga, arriva la multa e paga. Ah, sono due giorni che non mi arrivano multe, è ufficiale tra l'altro, sono due giorni che non prendo multe, faccio come mia figlia Angelica che torna a casa e dice: papà, buonissima notizia, oggi non ho preso la nota. Ecco, io due giorni che non ho preso multe. Comunque, chi pagherà questi contatori? Sì, l'avete capito bene, sulla bolletta verranno spalmati e pagati dagli utenti. Ma siamo all'articolo che mi fa tenere le mani sul volante se fossi in macchina, anche perché qui si parla di macchine in qualche modo, e quindi mani sul volante se siete alla guida, perché questo è l'articolo che ci fa più incazzare della giornata. Silvia Campese lo racconta da Savona per il Secolo XIX a pagina 10. Alla vigilia delle primarie per le amministrative si apre un caso a Savona di presunti privilegi, per carità presunti. È un ordine di servizio della municipalizzata che pulisce le strade di Savona. In questo ordine di servizio c'è scritto: buttate un occhio a quel parcheggio lì, soprattutto per l'eventuale presenza di cose macroscopiche. Massima attenzione, quel parcheggio è il parcheggio dove sosta il sindaco. Ed ecco che allora è bufera politica a Savona sull'azienda di igiene pubblica. Il pensiero dei cittadini è semplice: ci sono strade e parcheggi di serie A dove sosta o passa il sindaco, e quelle dei cittadini normali sono forse di serie B. Certo, l'azienda municipalizzata smentisce, dice: ma no, in realtà si tratta del testo non originario, c'è stata un'aggiunta, una postilla messa in grassetto, ma non concordata dai vertici dell'azienda. Insomma, sta di fatto che pulite il parcheggio del sindaco e Savona si incazza. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Mila, il sindaco di Roma dell'informazione. Mila, non era un complimento, eh? Che dobbiamo fare? Però in questa corsa più pazza del mondo magari mi candido anch'io a Roma. Ci candidiamo alla lista 24 mattino, tanto lo fa la Zanzara, chi se ne frega, lo facciamo anche noi. Anche perché un po' di confusione sotto... Peter Pescabè si è animato. Dai, facciamolo, dai, ma tu ne sai qualcosa di amministrazione di città? Sì, righe blu per tutti, parcheggi blu per tutti, 24 mattino mettiamo parcheggi blu e primo punto, abolirò le multe, cari ascoltatori, abolirò le multe, anzi cari cittadini, abolirò le multe se mi votate, candidato sindaco di Roma. Allora, qui c'è da dire che d'altronde di confusione sotto il cielo se ne vede, no? Alle primarie di Roma e di Napoli soprattutto. Oggi molti giornali aprono su questo, anche perché Bassolino fa ricorso. Ha perso di 500 voti più o meno, anzi un po' meno, e quindi dice: voglio vederci chiaro. Addirittura Repubblica tira in ballo la camorra. C'è l'ombra della camorra. L'ex sindaco, cioè Bassolino, fa il detective nell'esposto, racconta Dario Del Porto a pagina 11, nell'esposto di Bassolino si parla di controlli con metodi criminali fuori da un seggio. E dunque Bassolino fa ricorso, non accetta questo voto, dice: non farò altre liste, però il ricorso sì, si è detto disgustato, anche se invece De Luca, il presidente della regione Campania, ha definito tutto ciò con il termine che stiamo usando come tormentone dalle 6:30 di oggi: babbarie, dai babà, e quei giornalisti basiti che dicevano: ma che vuol dire babbarie, B, una B e poi due B in mezzo, babbarie, queste sono babbarie, diciamo sinceramente, la prima una B solo, la seconda con due B. Il dialetto in uso nell'acro nocerino sanese, babbarie, cioè sciocchezze, vuol dire questo? Ascoltatori che ci ascoltate dall'agro nocerino sanese, babbarie, così le definisce De Luca. In realtà Marco De Marco racconta, pagina 3 del Corriere della Sera, che tra veleni e signori delle tessere il partito, il PD, a Napoli è scalabile con 21.000 euro. Vuol dire proprio questo in concreto: i tesserati a Napoli sono 2.800, ogni tessera costa in media 15 euro. In linea teorica potrebbe bastare un investimento di 21.000 euro per garantire a chi che sia il controllo del 50% più uno del partito. Quindi a partire da queste primarie, nelle quali ci sono video, non uno, ma almeno due di fanpage.it, e forse ne viene annunciato un terzo, in cui qualche opacità, diciamo, che si è vista, no? Gente che offriva un euro, gente che diceva vota la Valente. Per Orfini, presidente del PD, intervistato dalla Stampa, da Francesca Schianchi, è tutto a posto. Sono casi singoli, eventuali singoli episodi non inficiano il risultato. Non vorrei che qualcuno cercasse di mettere in discussione lo strumento perché non gli è gradito l'esito, dice Orfini. Tutte le segnalazioni saranno verificate nel merito, ma solo a scegliere in tre in una stanza non si corrono rischi. È chiaro che se decine di migliaia di persone vanno a votare, non essendo noi il Viminale, qualche incidente può esserci. Insomma, de rubrica tutto a qualche incidente, a qualche episodio, ma Orfini, e sembra dettare in questo modo anche la linea del segretario del PD Renzi, dice si va avanti. Anche a Roma qualcosa di strano è successo. Per esempio a Roma si sono scoperte tantissime schede bianche nulle, il 7,8%. E uno dice, vabbè, ma guardate che in una votazione ufficiale nazionale può succedere anche di più. Ma perché uno deve andare a votare alle primarie, cioè prendersi la briga di uscire di casa, andare a pagare 2 euro, si pagavano a Roma, andare a votare per le primarie e votare scheda bianca o votare scheda nulla? Ma che senso ha? E allora ecco la spiegazione sul Messaggero. Roma, per alzare l'affluenza, gonfiate le schede bianche. È un dirigente del PD che svela al Messaggero il mistero dei gazebo romani. Ed è questo il mistero. Qualcuno di noi pensava di fare del bene. Così, tra la notte di domenica e il pomeriggio di lunedì, ha gonfiato le schede bianche nulle per fare aumentare l'affluenza, per non far vedere che stavamo di poco sopra i 40.000 elettori, ma eravamo vicini ai 50.000 votanti. Insomma, per evitare un accanimento sul flop. Quando poi lunedì pomeriggio i presidenti dei municipi hanno pubblicato sui social network i dati dei rispettivi spogli, abbiamo capito l'errore e abbiamo capito che avevamo fatto un boomerang. Insomma, hanno gonfiato i dati per far vedere che erano andate a votare più persone e hanno aggiunto voti alle schede bianche. Poi si sono resi conto che era un pasticcio. In tutto questo gongola Berlusconi, che dice: cosa ho sempre detto io, le primarie sono un meccanismo troppo permeabile a infiltrazioni, che non funziona, sono truccate, pericolose, hanno prodotto i peggiori sindaci che questo paese abbia mai avuto. Questo è il retroscena di Paolo Emilio Russo su Libero, a pagina 4. Questa sarebbe la posizione di Berlusconi. Certo, verrebbe da dire meglio la incoronazione a vita papale invece che fare le primarie. Comunque, nel centrodestra lui è sempre stato contrario e lo ribadisce. Tra l'altro Silvio Berlusconi, che questa notizia c'è solo sul giornale, ieri, racconta il giornale, Maria Sorbi è stato operato di cataratta all'occhio destro, una cosa che ha tenuto nascosto. Settimana scorsa voleva già operarsi e doveva operarsi, ma non lo ha fatto per la questione dei candidati a Roma, ma ieri al San Raffaele di Milano, ospedale, si è sottoposto a questo intervento di cataratta accompagnato dal fido medico Alberto Zangrillo, operato e dimesso già in giornata Berlusconi. Va bene. Intanto, lasciando le cose italiane, c'è la questione invece internazionale, soprattutto sulla questione dei diritti umani e l'intesa Unione Europea-Turchia per la questione dei migranti. Intesa sulla quale però l'ONU ha dei dubbi e dice no. Tutto ciò lo svela Beda Romano a pagina 6 del Sole 24 Ore. Né vero il nostro Mauro Meazza, né vero. Buongiorno. È vero, buongiorno, sì, e non sono babbarie, caro. Non sono babbarie, sono caro Milan. No, infatti, come riferisce appunto Beda Romano a pagina 6, ci sono queste perplessità sul preaccordo che è stato fatto, sai, tra Berlino e Ankara sul trasferimento dei profughi. Vediamo queste critiche come potranno riverberarsi, mi viene un'altra B in questo momento, con una B sola però. Beh, riverberarsi, non come babbarie. Mm-hmm. Sulla intesa peraltro abbastanza fragile per il momento tra l'Unione Europea e la Turchia appunto sui migranti. Oh, ma molte altre cose che non sono babbarie oggi sole. Sì, e che tra l'altro, scusa Mauro, perché tanti mi scrivono, ho detto l'agro nocerino sanese, sì, sarnese, certo, di Sano, ho sbagliato, mi stanno crocifiggendo su WhatsApp, va bene, crocifissione in diretta, andiamo. E d'altra parte c'è tutti i candidi, anche a cariche politiche importanti, non so. Che poi i cittadini si esprimano nei tuoi confronti. Certo. Va bene, innanzitutto, in allegato oggi con il Sole 24 Ore, lo speciale dedicato alle novità per i bilanci, sai che stanno cambiando parecchie cose sulla scrittura dei bilanci, sulla redazione dei bilanci, allora vengono riepilogate le novità oggi con il focus che è allegato al Sole 24 Ore. Oh, e poi ti segnalo una pagina tutta di questioni bancarie, perché che però riguardano un po' tutti noi. Allora, tra le altre cose, dunque, si sta discutendo il decreto legislativo sui mutui, sai quello che prevedeva questa possibilità di recuperare per la banca l'immobile, eccetera, eccetera, ha portato 18 rate, ecco lì ci sta anche una maggiore trasparenza. Poi è in vigore la garanzia sui depositi, le nuove norme europee che recepite in Italia di garanzia sui depositi fino a 100.000 euro, di conti correnti, tu ne hai due, quindi ci stai dentro largo. Eurini, poi piccolini. Euri o eurini, insomma, comunque solo due. E poi si continua a discutere sul decreto legge quello della GACS, ti ricordi? La garanzia, la mitica GACS. Oh, bravissimo. Si continua a discutere anche di quello. Trovi tutto riunito in una pagina oggi sul Sole 24 Ore. Ma ti voglio segnalare anche che nonostante la tua neghittosità, le entrate fiscali sono cresciute l'anno scorso del 4%. Ecco. Questo è materiale per il mio avvocato, te lo dico subito. Neghittosità, no. Mamma mia, ci quando sei intesi. Candidato sei diventato suscettibile con due B proprio. Allora, le entrate fiscali sono cresciute del 4%, cosa è cresciuto? La tassazione, ad esempio, sui fondi pensione, sul risparmio, ha dato buoni risultati, ma come avverte giustamente Salvatore Padula, qui bisogna anche ragionare non solo della fiscalità reale, ma anche di quella percepita, cioè di quanto poi incide il cosiddetto tax rate sui conti di tutti noi. Ho molte altre cose sul Sole 24 di oggi, ma il tempo è tiranno con due N, come due di babbaria. Allora ti segnalo soltanto, dal 15 marzo comincia lo SPID su larga scala, cioè l'identità digitale unica per i cittadini, anche per parlare con la pubblica amministrazione, quindi anche per te quando sarai sindaco. E poi una proposta di incentivazione per la previdenza complementare dalla destinazione del TFR. Di questo si sta ancora discutendo nel disegno di legge concorrenza, è ancora lì, ogni tanto torna fuori. Ne parliamo nelle pagine norme e tributi. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, con due F, come le due B di babbaria, traffico! Albino Milan, il lamentatore seriale dell'informazione. Dai, te non ti svegli tanto presto, Milan, via. Ah no, infatti, poi ha detto Peter Pescapè, se diventi sindaco io ti faccio porta borse, lì non ci svegliamo più presto, lì se magna, lì... va bene, primo punto abbiamo detto abolire le multe, secondo punto mi chiede un ascoltatore, se diventi interista saresti perfetto come sindaco di Milano, ma io non mi candido a Milano, ma a Roma... a Milan, se te fai la foto con la sciarpa della magica, te voto. Va bene, faccio secondo punto, sarò tifoso della Roma e della Lazio. Così, a seconda di chi si incontra in campagna elettorale. Secondo punto all'ordine del giorno, tifoso della Roma e della Lazio, a giorni alterni, così. Allora, cari ascoltatori, parliamo di cose serie. La questione dei profughi. La notizia del giorno è che la Slovenia, come mette la stampa in prima pagina, la Slovenia chiude le frontiere, dicendo la rotta balcanica è chiusa, e questo ci pone gravi problemi, anche perché la Slovenia, come sapete, è lì, e quindi potrebbe ripercuotersi anche sull'Italia. D'altronde l'Italia guarda con attenzione il rischio che tutte le persone ammassate che cercano una via centrale per l'Europa, poi vista questa via chiusa, possono riversarsi sull'Italia per altre vie. Ma sulla questione dei migranti, oggi c'è l'articolo più interessante, a mio modo di vedere, di Liana Milella, pagina 4 di Repubblica. È un articolo che, udite bene, aprite le orecchie, a volte i numeri possono servire. Domani verrà presentato un libro curato da Roberto Garofoli, che è il capo di gabinetto del Ministero dell'Economia. cioè più che un libro verrà presentato un rapporto, una ricerca. Ebbene, 600.000 italiani hanno la pensione pagata grazie ai contributi degli immigrati. Non male come cifra. La cifra fornita dal Ministero dell'Economia rivela che per il 2015 l'Italia ha speso 3,3 miliardi di euro per affrontare il capitolo dell'emergenza immigrazione, di cui 3 miliardi per spese di natura corrente. Il dato che emerge tra tanti dati interessante è questo: nel 2014 i lavoratori extracomunitari hanno versato all'INPS contributi per 8 miliardi di euro a fronte di prestazioni pensionistiche pari a 642 milioni e non pensionistiche pari a 2.420 milioni. Il saldo positivo risulta dunque essere poco meno di 5.000 milioni, di 5 miliardi di quanto andato rispetto a quanto hanno ricevuto all'INPS. Calcoli ulteriori dimostrano che i contributi versati dagli immigrati servono a pagare la pensione di oltre 600.000 italiani ogni anno, contribuendo così alla tenuta del sistema previdenziale. È un dato, è un numero del Ministero dell'Economia, quindi non discutibile, e forse sul quale meditare un pochettino. Tra l'altro, a proposito di numeri, oggi Avvenire mette a pagina 3 un interessante numero. Questo secondo me è un po' più ballerino, nel senso che quantificarlo lo ha fatto una onlus australiana, un think tank australiano, diciamo che è un po' più complicato. Comunque è il costo del male, così viene definito da Avvenire. Violenza e guerra quanto ci costano? 14.000 miliardi di dollari nel 2015, per la precisione 14.300 miliardi di dollari nel 2015. Questo un think tank australiano ha definito come cifra. Certo, violenze, guerre, è un po' più complicato dare una cifra di questo genere, però la stima è questa. Siamo in veloce, rapida conclusione. A proposito di numeri, sapete invece quanti italiani sono in carcere in Italia per sentenze definitive per corruzione? Si dice l'Italia è un paese di corrotti, di corruzione. A giudicare dalle persone nel carcere? No. Ma sappiamo che non vanno molti corrotti in carcere perché le scappatoie sono tante. Pensate che sono solo lo 0,6% della popolazione carceraria. Il Fatto Quotidiano racconta con Valeria Pacelli questo studio, che peraltro è uno studio straniero perché è dell'Università di Losanna in Svizzera. L'Università di Losanna ci dice che solo lo 0,6% di carcerati in Italia sono per crimini contro la pubblica amministrazione. In totale sono 228 detenuti, 228 in carcere per condanna definitiva per corruzione. Vi segnalo un articolo interessante sui millennial, la generazione millennial, quella nata a ridosso tra gli 80 e il 2000. Dunque anche voi che state andando a scuola, forse cari giovancelli e giovincelle, come vi definiscono un po' in tutto il mondo? In Norvegia siete la generazione seria, vi definiscono così, ma perché avete preoccupazioni serie? Disoccupazione, precarietà, stipendi bassi. In Spagna siete i mileuristas, quelli che guadagnano 1000 euro. In Giappone vi chiamano i nagarazoku, le persone che fanno due cose alla volta, insomma i multitasking. Non chiamateci millennial, ma come vi definiscono in tutto il mondo. In Cina sapete come vi definiscono? I mangiatori di anziani, perché vivete forse alle spalle dei vostri nonni in Cina. I millennial, va bene, siamo alla carta costa. Questo articolo sui millennial lo trovate sul Corriere. La carta costa invece, l'articolo più inutile sui giornali, è un'intera pagina. Leonardo Bizzarro, Repubblica, ci racconta un dramma, è addio allo snowboard e c'è la rivincita degli sci. Ma chi se ne frega!